Se non prendo il caffè non riesco a carburare. La stragrande maggioranza di persone di caffè consuma 3 tazzine al giorno. Il caffè è la seconda fonte di trattata. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni ambientali. Tutto il mondo si beve caffè. 17, 2 minuti primi, già partiva un pezzo che ascolteremo tra pochissimi secondi. Comunque, Radio Onda Rossa 87.9 FM, questo è Caffè Doppio. David, ci sei? Sei pronto? Sei vivo? Sei morto? Sì che sono vivo e sono prontissimo! E va bene, allora dagliete questo caffè doppio dopo questo sabato sera che speriamo vi abbia allettato, perché purtroppo domani, ragazzi, si ritornerà a scuola. Insomma, stiamo tutti con le lacrime agli occhi dopo questi giorni di neve. Io no, io no, io no, io no. Bastardo, sto universitario. Vabbè, insomma, sentite, ci ascoltiamo questo pezzo che ci introduce il nostro ospite di oggi e presentacelo. Sempre la mia parte del cervello tagliata a metà. Tu che dici? Beh, diciamo ascoltiamolo e poi facciamo il via alle presentazioni. Finisco continuamente a fare cose che non voglio. Se le faccio è solamente per riempirmi il portafoglio. Aiutatemi, vi ringrazio. Trovo sempre mille scuse per non muovere un dito. E poi lancio le mie accuse da trentenne fallito. Aiutatemi, vi ringrazio. Indicatemi la via, la sera. Se la vita è un percorso, la mia è un vicolo cieco, un inutile discorso in un deserto senza eco. Ascoltatemi, io vi ascolterò. Se non fossi un cagassotto, sparirei in un momento, con un solo grande batto contro un muro di cemento. Sava di bombe, boia di bo, sava di bo. E qua 17, 5 minuti, se siamo rotti tutti er cazzo, come dice la canzone. E vorremmo presentare qua con noi il cantante dei Cuzzo, Matteo. Ciao a tutti, ciao. Allora, insomma, sì, ti sentiamo, okay. Abbiamo un attimo di break, insomma, scambiarsi il microfono è un po' difficile, ma comunque ci riusciremo, insomma, se siamo un po' rotti il cazzo, però ci riusciremo. Okay. Allora, era Aiutatemi dei Cuzzo, siamo in collegamento con Matteo, il cantante, che ringraziamo per, insomma, dedicarci un po' del suo tempo e farsi una chiacchierata con noi nella nostra trasmissione. E niente, dopo averci salutato, io direi che, insomma, facciamo una domanda classica. Parlaci un po' in generale dei Cuzzo, magari anche di qualche punto di questo pezzo, com'è nato. E non lo so, carta bianca a te. Ok, allora, noi ci chiamiamo Cazzo, che sì, ok, è scritto K-U-T-S-O, però va letto all'inglese, diciamo. Ah, ok, ok. E niente, insomma, esistiamo da più o meno il 2005 con questa formazione, stiamo suonando tantissimo in giro, stiamo cercando di crescere, di ottenere sempre più consensi in maniera da suonare su palchi sempre più grossi, cercando di uscire sempre di più dal Lazio. Niente, insomma, questa canzone che hai mandato, come poi un po' tutte quante, sono tutte pagine di un diario, il diario della mia vita, diciamo, finora, quindi sono molto biografiche, fermano dei momenti, delle sensazioni, dei pensieri che in continuazione cambiano dentro la mia mente, insomma. Ah, certo. E poi un'altra domanda che volevo farti era, adesso in questo momento, insomma, in Italia, come in tutto il resto del mondo, c'è una grossa crisi, soprattutto nel campo discografico, sappiamo tutti che c'è una grossa crisi derivata dagli MP3, queste cose qua. Volevo sapere un pochettino voi come agite in questo mondo, come cercate di emergere. Ma guarda, la crisi di cui hai parlato è la crisi dei vecchi potenti, invece la gente che non c'è mai stata dentro a quei meccanismi, come noi e come tutti gli altri gruppi che, vabbè, si chiamano emergenti, ma semplicemente sono gruppi che non stanno dentro i canali ufficiali della comunicazione, per noi, per tutti noi, questa situazione invece è proprio una grande opportunità. Meno male che si distrugge tutto il mercato della musica, così se ne vanno a fare in culo e siamo d'accordissimo su questo. Quindi questa è la mia opinione su questa cosa. Ho capito. Comunque, guarda, per noi la vendita dell'oggetto canzone è relativa, nel senso, noi diciamo che campiamo sulla musica che suoniamo dal vivo, sullo sfruttamento dei nostri brani per altri motivi, che ne so, un film, una pubblicità, vabbè, ancora cose grosse non sono capitate, però quello, diciamo, è lo stipendio del musicista. La nostra musica l'abbiamo sempre messa online gratuitamente a chi ce lo chiedeva, quindi per noi è come se fosse un biglietto da visita, ecco, ancora, cioè non crediamo, cioè noi vendiamo anche il nostro CD ai concerti, abbiamo un CD, un EP di 4 brani dove c'è appunto la canzone Aiutatemi, che è il singolo di questa uscita, però ecco, l'abbiamo fatto più perché ancora in un certo senso serve un'uscita, cioè serve per far parlare le webzine e tutti gli addetti ai lavori, però a noi non interessa fare un disco o non farlo, insomma, l'importante è suonare, esserci e esistere. Ok, perfetto. Allora io direi, dopo questa introduzione, mettiamo un secondo vostro brano e lo sparerei subito, e si chiama Questa Società, e vuoi presentarcelo tu o lo lasciamo scorrere e poi ce ne parliamo dopo? Vai, mandalo. Mandiamolo. Allora, tutti all'ascolto, questa è Radio Onda Rossa, Caffè Doppio, e questa è Questa Società, Cazzo. Dico sempre le stesse cose, piango senza alcun motivo, bevo bevande dannose e mi chiedo perché son vivo. Ma non sopporto più chi insiste con Gesù, chi mi chiede aiuto e crede che per me sia facile. Questa società ama la spontaneità, sono vero e sincero. Passo i giorni ad imprecare, vorrei leggere Nietzsche, non ho tempo neanche per pisciare, e sorrido ma non mi va, dico bello invece fa caga, mostro entusiasmo per le tue idee noiose e stupide. Questa società premia la meschinità, fino a quando bestemmiando love it, it was. Guarda, Ax, sono già le 3:30, cosa vogliamo fare? Guido, me lo alzi. No? Stavo iniziando un altro pezzo che vi spareremo un po' più tardi. Intanto è finito anche questa società dei cazzo, che in realtà, se siete metti al teatro dell'opera e vuoi dire che hai ascoltato i cazzo, pare un po' brutto, allora potete dire ho ascoltato i cuzzo, che magari non si capisce, no? Sì, per Radio Vaticana... ci chiamiamo così, per Radio Maria. Non credo che a Radio Vaticana passeranno i vostri pezzi, però ho questo dubbio. Cambierà anche questo, cambierà anche questo. Cambieremo la nostra società, appunto. E, insomma, questa società è un altro dei brani di questo EP da 4 tracce, giusto? No, allora questo no, è un altro. Sull'EP ci sono Aiutatemi e altri 3 brani, ma questa società no, è un altro, è un video che abbiamo fatto a parte. In realtà, non essendoci appunto un piano di uscita, no? Il primo disco, il secondo disco, noi facciamo le cose, appena le abbiamo fatte ne facciamo il video, però poi insomma tutto esce fuori abbastanza disordinatamente, quindi c'è questo EP fuori, ma c'è quest'altro video che non riguarda l'EP, adesso ne stiamo facendo un altro ancora, e ne è uscito uno poco tempo fa, della canzone si chiama Mi Eccito, che raccoglie delle immagini riprese ai nostri concerti. Insomma, sì, volevamo dare visto. Anche i vostri video sono molto molto belli, mi sono piaciuti. E tra l'altro abbiamo in scaletta tutti i brani dei vostri video e invito tutti i radioascoltatori a andarseli a guardare su YouTube o sulle pagine Facebook e profili, perché sono veramente belli. Ti ringrazio. Meritano, sono divertenti. Noi tra l'altro siamo... dimmi. Scusami. Parlo io? Sì, sì. No, dico, con i video noi cerchiamo di esprimere comunque quello che succede anche ai nostri concerti, cioè diciamo un dinamismo rocambolesco e vorticoso, nonsense, voglia di ridere, di divertirsi insieme e fare festa. Questo è quello che cerchiamo di comunicare anche con i nostri video. Mi ricorda qualcuno, detto... Io? Sì. No, io. No, sai perché, vabbè, tu probabilmente non sai la nostra storia, ma noi in realtà suonavamo insieme fino a un anno fa, eravamo diciamo i re del cazzeggio, però quelli veri, non quelli... Tra l'altro abbiamo fatto anche noi un video facendo un bordello pazzesco, totalmente nonsense, e perciò insomma vedendo i video abbiamo capito che c'eravate molto vicini e ci siete stati subito simpatici, insomma. Ringrazio. Poi guarda, è molto facile essere, quando uno fa una musica del genere, è molto facile essere fraintesi e la gente magari pensa che facciamo musica demenziale, ma non, cioè, assolutamente non è quella l'intenzione né il presupposto. Diciamo che le nostre fonti di ispirazione vanno da Iggy Pop a Giorgio Gabber, a Lucio Battisti, ai Sex Pistols, ai tutti Beatles, i grandi nomi, insomma. Cioè... Sì, ma non ci sono i Profilax, non ci sono. Te li stavo citando io, cioè mi hai anticipato. No, vabbè. Assolutamente, noi stiamo dall'altra parte, proprio. Sì, sì, no, vabbè, ma si sente comunque nei brani. E volevo farti una domanda più che altro, se volevi introdurci un po' la tua band, no? Insomma, sì. ogni singolo, quanti siete, che cosa fate nella vita, insomma, a parte il musicista? Allora, noi siamo in 4, questa band è formata da 4 persone, ci sono io, Matteo Cambianelli alla voce, poi c'è Alessandro Inolti alla batteria, Luca Mendola al basso e Donatello Giorgi alla chitarra. Tutti e 4 poi dal vivo comunque cantiamo. Ma a parte Donatello, il nostro chitarrista, che è un dipendente di Decathlon, anche contento della sua posizione sociale. Noi siamo tutti quanti musicisti che facciamo solo questo, insomma, nella vita per campare. Io ho uno studio di registrazione che ci permette di registrare le nostre cose ed è il lavoro che svolgo e che mi fa mangiare, diciamo. Sì, sì, e sapevo anche che il batterista si è diplomato a un'accademia musicale, appunto, alla St. Louis. Sì, appunto, no, perché ha frequentato lo stesso maestro che frequento ora io. Ah, quindi, okay. Insomma, strade intrecciate, anche se non ci siamo mai incontrati realmente. E vabbè. Ma lui, anche loro, sia il bassista che il batterista, insegnano, quindi ecco, così... questa è la nostra vita. Insomma, la strada del musicista. Voi siete musicisti, avete deciso di fare questo nella vita, lo portate avanti. Sì, sì, con tutte le difficoltà del caso, però insomma, ormai la nostra strada. Le difficoltà del caso, anche del cazzo a questo punto. Sì, soprattutto. Forse ecco, ho sbagliato, era così. Una volta sbagliamo noi, una volta te, dai, se passiamo la palla. Vabbè, senti, vabbè, intanto insomma fa piacere sentire che qualcuno, anche con tutte le difficoltà, ci riesce a vivere di musica, perché è comunque un bellissimo mezzo di cui nutrirsi. E, dopodiché, niente, io direi che magari ci possiamo ascoltare un pezzo diverso adesso, per tagliare un attimo la conversazione e poi ricominciamo, va bene? No, io voglio soltanto pezzi nostri. Ah, ok, va bene. Allora mettiamo un altro. Vabbè, dai, ce l'ascoltiamo dai, dopo. Puoi metterlo per posso? Volta, lascio. Vabbè, ti piace J-Ax? J-Ax? No. Oddio. No, ma stavo scherzando, infatti. Stavamo scherzando, volevamo mettere... Volevamo mettere... in crisi ero. No, volevamo mettere Fabrizio D'André in verità, però ci è scappato J-Ax. Tutto bene, rispetto per J-Ax, però non voglio che mi vengano qua a fucilare. Ah, perché siamo in territorio J-Ax? No, non siamo in territorio J-Ax, ma qualcuno avrà da dissentire su questa mia affermazione. O sulla tua. Vabbè, mettiamo Fabrizio D'André e questo è un giudice. Ok. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ce lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Svegliati al lume del rancore, e preparai gli esami, diventai un procuratore, per imboccare la strada che dalle banche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. Allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Ed eccoci di nuovo in onda, 17:21 minuti, qua siamo su Caffè Doppio e siamo ancora in linea con il nostro ospite. Matteo, ci sei? Sì, ciao. Eccoci di nuovo in linea. Andava meglio rispetto a J-Ax? Sì, mi è piaciuta questa. Dai, va bene, ci fa piacere. Vabbè, direi che possiamo continuare la nostra chiacchierata. Insomma, ci dicevi che voi come gruppo state intraprendendo una carriera che... non lo so, un po' anticonformista mi è sembrata, nel senso uno si immagina la band, no, che va a fare i concerti, si cerca un'etichetta discografica e cerca di sfondare da quella parte, mentre tu ci dicevi che più o meno vi finanziate con pubblicità, video, eccetera, no? Ma invece dal punto di vista un po' più di non lo so, di far uscire un disco con un'etichetta, eccetera, ci avete una qualche idea oppure... Pensate, guarda, di andare avanti così? Come ti dicevo, il disco non è una cosa a cui stiamo pensando, cioè nel senso noi facciamo quello che le situazioni ci spingono a fare. Se per esempio quando abbiamo fatto questo EP abbiamo trovato una piccola etichetta indipendente che ci ha offerto di stampare il CD e si occupa anche del nostro merchandise per ora. E quindi insomma loro si sono occupati del supporto economico di questa operazione e allora sì, noi lì abbiamo dato l'ok per fare un EP perché appunto non eravamo solo noi a dovercelo autoprodurre, c'era di concerto una decisione presa con lo staff, l'etichetta, la 22R, e quindi abbiamo fatto l'EP. Per un disco vediamo, nel senso noi stiamo cercando appunto di crescere, di avere sempre più voce in capitolo. Quando le condizioni intorno a noi saranno mature, vedremo se faremo un disco, vedremo quale sarà, quando noi arriveremo a questo punto, vedremo se sarà ancora il disco un punto d'arrivo. Può darsi che tra 3-4 anni i dischi non gliene fregano più niente a nessuno, come già sta accadendo, quindi noi continuiamo a fare canzoni, noi abbiamo fatto più di 30 canzoni, ogni volta registriamo, le mettiamo, facciamo il video e le mettiamo online, quindi in realtà abbiamo già materiale per 3-4 dischi, cioè non è questo il problema è fare quello che conviene fare in un determinato momento. Ah, ok, perfetto. E ci parlavi prima, ci dicevi che comunque avete anche contatti per andare fuori dal Lazio, per insomma fare i vostri live fuori, e avete già qualche progetto aperto, sapete già qualcosa? Allora guarda, noi non abbiamo un booking nostro, nel senso che fortunatamente finora i locali, i posti dove si suona ci chiamano e andiamo a suonare, e questa diciamo è la condizione migliore, perché anche a livello contrattuale diciamo o di trattativa diciamo abbiamo un po' più voce in capitolo di prima. E fuori siamo andati al sud soprattutto, il 17 febbraio saremo a Teramo al Déjà Vu, il 18 a Tivoli al Dissesto Musicale e il 25 allo Spartaco qui a Roma. Quindi niente, no, stiamo cercando di uscire sempre di più. La cosa che vorremmo ottenere è trovare un booking o un ufficio stampa, insomma, che si occupi di noi, però diciamo che ci sono delle cose che bollono in pentola e vediamo se si concretizzeranno, ecco. Va benissimo, senti, io fremo per ascoltarci un altro dei vostri pezzi, perciò direi che ci possiamo ascoltare il singolo del video che citavi prima e mi eccito. Sì. Anche se ti avevo detto che non l'avrei mandato, invece ho deciso poi di mandarlo. Mi piacciono i colpi di scena. Sorpresina! Va bene, allora il cazzo con e mi eccito. Scopato in macchina, avrei voluto godere di più, come sei bella, che tette hai, avrei voluto durare di più e sentirti gridare di più. Ora penso a te e mi eccito. L'abbiamo fatto troppo di corsa su quei sedili scomodi, forse non ti è neanche piaciuto. L'hai fatto forse per pietà. Ora penso a te e mi eccito. Allora, come al solito, per i cazzo potete apprezzare i loro pezzi facendo uno squilletto allo 0649 1750 di Radio Onda Rossa. Ed eccoci di nuovo in onda, spero che vi sia piaciuto questo brano. E nel frattempo il computer mio, dove mantengo i contatti con Facebook, con tutti gli ascoltatori, è impazzito, si è eccitato pure lui, non so che dire. Mi è partita un'installazione da solo, si era avviato. Bordello, quelli sono i virus che stanno dentro le nostre canzoni, abbiamo fatto queste, aia, queste canzoni, aia, multimediali. No, ma lui l'ha ascoltato il brano, non è che... non è che ce l'aveva dentro il brano, è sentito, stava nell'aria e si è riavviato, si è eccitato, va bene. Vabbè, insomma, ci dicevi questo brano uscito insieme al video online, non so se anche questo c'ha una storia particolare che ci vuoi raccontare. Ma mi pare abbastanza esplicita la canzone, sì, non so. Sì, in effetti. Ma sì, guarda, è una quella, diciamo... Io credo che sia una situazione abbastanza comune, no? Quando magari appunto ti ritrovi in una situazione, in un flirt, diciamo, automobilistico. Chiamiamolo flirt automobilistico per alleviare un pochettino, però insomma il testo mi sembrava abbastanza esplicito. E una cosa, una curiosità, ma è dedicata a qualcuno in particolare? Guarda, ti dico che le, dice, come ti ho detto prima, le canzoni sono tutte autobiografiche, basta, non mi chiedere altro. Naturalmente era retorica questa domanda. Ma diciamo che eri da solo in macchina. Sì, ero da solo. Ero da solo e stavo scrivendo questa canzone, appunto. Ah, certo. Ah, ho capito, perciò è riferita al testo. Sì. Ti eccidi davanti al testo, giusto. Sì, vabbè, è un loop, no? È una cosa filosofica questa. Va bene, senti, niente, sinceramente non so cos'altro dire, insomma, a parte i pezzi, insomma, si presentano da soli, si commentano da soli, speriamo che siano piaciuti. Prima di scambiare altre due chiacchiere, direi che ci possiamo ascoltare un altro pezzo per tagliare la corda, anche se non è il termine giusto, ma mi andava di dirlo. Ma te hai ancora i posti di ieri sera, ma non puoi dire queste cose in ma mi dispiace, ma... Vabbè, dai, presentiamo un altro pezzo. Questi qua sono i Tre Allegri Ragazzi Morti e si chiama Puoi Dirlo a Tutti. Rubato la gioventù, rovinato l'adolescenza, e adesso ci sei tu. Mi hanno rubato l'infanzia, rovinato la gioventù, negato l'adolescenza, e adesso ci sei tu. Puoi dirlo a tutti che sono stato io a farti un occhio nero con la matita blu. Mi hanno negato l'infanzia, rubato la gioventù, rovinato l'adolescenza, e adesso ci sei tu. Mi hanno rubato l'infanzia, rovinato la gioventù, negato l'adolescenza, e adesso ci sei tu. Puoi dirlo a tutti che sono stato io a farti un occhio nero con la matita. vita blu. La forza è l'adolescenza, forse non ci sarà più. Oggi faccio fuoco e fiamme come non facevo più. Con te ci sono stato, ma in un'altra misura. Se solo avessi avuto un po' meno paura. Puoi dirlo a tutti che sono stato io a farti un occhio nero con la matita blu. Mi son giocato l'infanzia, divertito in gioventù, sconvolto nell'adolescenza e adesso ci sei tu. Mi son giocato l'infanzia, divertito in gioventù, sconvolto nell'adolescenza e adesso ci sei tu. Se solo avessi avuto la ragione con me, faccio quasi fuoco e fiamme come non facevo più. Io ci riprovo ancora, stavolta senza misura. Ti giuro che ci provo, ma senza paura. Ed erano i tre allegri ragazzi morti, 87.9 Radio Onda Rossa, Caffè Doppio. Siamo ancora in collegamento con i cantanti dei Cazzo, o Cuzzo, per dirlo in modo elegante. Pronto? Ciao, sono sempre io. Sempre lui. Cantante non sei cambiato. Vabbè, senti, io direi che possiamo cominciare a chiudere questa fetta di intervista. Ti chiediamo solo magari se ti va di ripeterci i tuoi contatti e anche le prossime date. Allora, noi abbiamo sia il nostro sito che è www.cuzzo.com, K-U-T-S-O.com, anche su Facebook ci potete trovare sia sotto la parola Cuzzo, sia che ci sono anche Cuzzo che Fico, diciamo è il nostro profilo su Facebook, e su MySpace, myspace.com/Cuzzo, quindi se volete, anzi se digitate su Google Cuzzo compare tutto quello che vi serve. È una grandissima emozione quando scrivi il nome della tua band e ti esce su Google. Non è vero? Scusa, volevo dire anche questo. Come certo. Prego. Le prossime date appunto sono il 17 febbraio a Teramo al Déjà Vu, il 18 febbraio a Tivoli e qui a Roma il 25 febbraio al CSOA Spartaco, che sta a Cinecittà. Invito tutti quanti a venire perché dobbiamo fare in modo di creare una festa mega galattica. Va bene, allora noi sicuramente ci saremo e invitiamo tutti quanti al CSOA Spartaco qui a Roma. Il, puoi ripetere la data? 25 febbraio alle ore penso 9:30-10, ingresso 3 euro, quindi è tranquilla, venite tutti e ditelo ai vostri vicini. Va bene, perfetto. Allora noi ti salutiamo con un ultimo pezzo, sempre dai Cazzo, Eviterò la terza età. No? Sì, sì, perfetto. Grazie. Questo pezzo io lo adoro. Quindi non potevamo non passarlo. Grazie di essere stato intervistato da noi. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao, grazie ancora. Ciao. Dobbiamo usarci come dei cani. Accettarci ed essere amici, amici del cazzo. Io odio gli amici, odio i fratelli, odio i padroni, ma anche i colleghi. Ottimi dovreste chiedere scusa. Sogni infranti, non avrò fatto. si libera il telefono. Ringraziamo Matteo, cantante dei Cazzo, che stiamo ancora ad ascoltando qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Perché? Telefono libero, luce rossa libera, potete ricominciare ad apprezzarci tramite lo 06491750, numero telefono Radio Onda Rossa. Ed era l'ultimo pezzo dei Cuzzo che ci ascoltiamo per oggi. Ringraziamo ancora il cantante per essere restato in contatto con noi per questa mezz'oretta di chiacchierata. E insomma, ci avrebbe fatto piacere anche farci una chiacchierata a quattro occhi, però magari avremo l'occasione di rivederlo al concerto. Beh, sicuramente il 25 tutti a vedere il concerto dei Cazzo, o Cuzzo per meglio dire, per essere fini. Vabbè, insomma, raggiungono le 17.38, 39 adesso sull'orologio di Onda Rossa, 87.9 0649 1750, il numero di telefono, www.ondarossa.info invece il sito internet dove trovate tutte le informazioni della radio. Questo è Caffè Doppio, ci ascoltiamo un altro pezzo per andare avanti, un pezzo del cantante dei System of a Down, ed è Empty Walls. Thank you. E siamo tornati in collegamento, 17:43 minuti, e qua in redazione arrivano degli squilli, però non possiamo rispondere. Ci stanno chiamando, probabilmente. Purtroppo siamo da soli in radio, e dobbiamo continuare la nostra trasmissione. Direi che ci possiamo continuare ad immergere nella nostra scaletta musicale, e continuiamo subito con il prossimo pezzo, direi. Direi proprio di far ballare tutti. In questo momento qua a Radio Onda Rossa si parte un po' di Cyberpunkers. Che ancora se ancora state dormendo vi farà svegliare un po' male. E sicuramente vi ricorderà il sabato sera. Sì, probabilmente. Quindi... lo speriamo vivamente. Chi ci voleva chiamare, invitiamo a chiamare durante le canzoni. Giù dal letto e ballate! Bomba! ed è bello ballare alle 5 del pomeriggio insieme ai Cyberpunkers. Con questi ritmi tunz tunz. Questi ritmi serrati in 20 metri quadrati. No, questi non c'entra ritmi niente. Tunz tunz. Questi ritmi tunz tunz. Vabbè, basta, abbiamo capito. 17:48 minuti, di nuovo in collegamento qua con Caffè Tappio. Qua è già finita. Oh, che peccato. Qua ci chiedono anche di prendere del caffè decaffeinato ogni tanto, però oggi mi sa che ci voleva proprio... Decaffeinato. Ma non so neanche cosa significhi. Tu ti permetti di bestemmiare in diretta? Non sono stato io a bestemmiare, ma è stata un'altra persona di cui non farò il nome. Vabbè, tanto te veniva più sotto casa, insomma, caffè decaffeinato non si può proprio dire, insomma, è la bestemmia delle bestemmie, il caffè se pia doppio, al massimo normale, macchiato freddo, macchiato caldo. Vabbè, adesso non facciamo la lista dei caffè. Amaro, al vetro, alla plastica, corretto, alla cera, corretto, bravo, bravo, così. Ricomincia subito perché la sera si avvicina. Vabbè, insomma, sempre Radio Onda Rossa, 87.9, caffè doppio, ci stavamo addentrando nella nostra scaletta musicale dopo aver intervistato i Cuzzo. Direi che... ci possiamo ascoltare questo pezzo che ci avevano richiesto un po' di tempo fa. Diciamo, avevamo messo un pezzo di Battiato. Ah no, dei Subsonica. Avevamo messo un pezzo di Subsonica e ci hanno richiesto questo featuring. E quindi metteremo adesso Subsonica e Battiato, Up Patriots to Arms. La regola ormai la sapete, 06 49 17 50, se vi piace. Stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità. Se le panchine sono piene di gente che sta male. I'll bet your two arms. Invitiamo il gentile cliente Tameto a ritornare in studio, è andato dall'altra parte ad amoreggiare e questo a noi non piace. L'Ayatollah Khomeini per molte santità a bocchi sempre all'amo. Le barricate in piazza li fai per conto della borghesia. In realtà dovevo andare in bagno, però se magari ogni tanto ti fai un par di cavolacci tuoi, insomma. Per i capelli che portiamo, noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. Che bugiardo. Fateci gli squilli, fateci gli apprezzamenti se vi piace la nostra musica. L'impero della musica è giunto fino a noi, carico di menzogne. Mandiamoli in pensione i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser. Se le pedane sono piene di scemi che si muovono. I'll bet just two arms. Engagez-vous. La musica contemporanea. Mi butta giù. ci chiedeva un'ascoltatrice di Caffè Doppio di fare un po' di lezioni di chimica alla figlia, e noi vogliamo adempiere al suo desiderio. Abbiamo qui davanti a noi la tavola periodica, e per oggi la prima lezione sarà elencare gli elementi della prima colonna, anche se in realtà si legge al contrario, cioè nel senso da sinistra verso destra e non dall'alto verso il basso, ma noi ci vogliamo complicare la vita e perciò la leggeremo in verticale. Prenda nota, prego. Allora, il primo elemento è l'idrogeno, ha un solo elettrone, un solo protone, un solo neutrone. Il secondo tocca a David ed è il litio. Ti ricordi quanti elettroni ha il litio? Non guardare, no, non guardare. Maestra, non sono preparato. Lo chiediamo alla nostra regia, in questo momento ci stanno dicendo tre. Tre, va bene. Giusto? A posto. Vabbè, ma allora lo vedi che la sai chimica, cioè non si sa. Poi c'è l'altro elemento della terza riga, terzo elemento in colonna, il sodio, Na come sigla, ha 11 elettroni. Poi c'è quello che ne ha 19, che è il potassio come sigla H. E poi c'è l'Rb, sempre procedendo verso il basso, che dovrebbe essere il rubidio. La cosa bella è che lui dovrebbe essere, ma lo sta leggendo, cioè sei un genio, sei un io con questa cosa manderei il prossimo pezzo e ci mettiamo i ratti della Sabina. No, ne mancano due, quello che, no, che c'ha CS è il cesio e poi c'è il francio, FR, vabbè ti dai. Prego. Per la prima lezione abbiamo concluso, alla prossima domenica per un'altra edizione di Chimica Online o Radio Onda Rossa. Quella era Pinguda. Vabbè, la nostra sigla, va bene lo stesso. E questi sono i ratti della Sabina, mettiamo lo scemo del villaggio. Può tranquillamente definire matto. E voi sicuramente troverete divertente il fatto stesso che io porti la mia faccia tra la gente. Certamente sarà relativamente interessante tutto quello che ho da dire, ma sarà comunque grande il piacere che avrò nel cantare e suonare stasera per voi. Spero nessuno ne avrà da ridire, ma in caso contrario un sistema migliore è di non starmi a sentire. Vivo da sempre, vivrò per sempre alla periferia della normalità. David si è distratto e perciò vi dico un altro paio di elementi, ok? Allora c'è BE, berillio. Matteo, basta! Conseguenzialmente poco utile o inutile totalmente alla tessitura di una pelle magica. No, non mi mangiare! Trovando in me la sua ideale collocazione, prese posto tra le pieghe della mia immaginazione. Poi non ricordo cosa esattamente sia successo, ma l'effetto risultante è quello che davanti ai vostri occhi voi vedete adesso. Ma chi non avrà paura di questa mia condizione venga pure ad imbarcarsi per un viaggio sulle onde dei deliri dello scemo del villaggio. So io chi è lo scemo del villaggio. Lo posso dire? Poi si alza in chiaro anche un dillo. Sei tu. Siamo atto vede il mondo in modo distratto, ma la questione è che con il buon senso il mio cervello non è andato mai d'accordo dandogli lo sfratto. Perciò mi piace. Certo, se tu sei lo scemo del villaggio, io sono l'imbecille del villaggio. Che la gente non comprende o non è capace di vedere. O meglio, il re dei scemi. Dannazione di chi la ragione l'ha veduta solamente di passaggio. Sono il coordinatore di tutti gli scemi del villaggio. Che sono scemo del villaggio. un'altra lezione di chimica. Uno spettatore mi sta dicendo in questo momento che io assomiglio a un HCIPH1. Chi mi dice la soluzione in diretta in questo momento vince un panda. Un inutile miraggio, gli risponderò tranquillamente. Questa è la mia vita, la vita dello scemo del villaggio. Già partiamo un altro pezzo, sta scaletta è velocissima, passa il tempo e già arrivano le 6, già ancora non si vede la prossima trasmissione, Jasi ancora non è arrivata in radio, allora noi ci dilunghiamo un pochino ino e direi che ci ascoltiamo questo pezzo di una conformazione un po' strana. Loro sono i Quinto Rigo, composti da tre archi, tutti quanti cantano e poi un bel ragazzo ai fiati. Ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Neon Sun. Chimici all'ascolto, per favore rispondete, dateci la soluzione. Purtroppo i nostri ascoltatori non sanno scrivere, era HCL e adesso sappiamo anche la soluzione. Ma il concorso è ancora valido in ogni caso. Ricordate 06-491-750 per vincere un panda. Let my motion live. Ed eccoci di nuovo in collegamento. Forse abbiamo l'esclusiva, un vincitore. E siamo in linea adesso con il nostro vincitore. Forse alle 18:04 minuti su Caffè Doppio. Pronto, ci senti? Sì, ciao. Ciao, dove chiami? Chiamo da casa mia. Ah, ciao. Senti, allora ci vuoi rispondere all'enigma? Ti ricordiamo magari gli elementi chimici? Sì, grazie. Allora, gli elementi chimici sono HClPH1. Allora, la risposta è acido idroclorico pH1. Mi sembra che proprio sia quella giusta, o sbaglio? Ma il nostro chimico di redazione dice che è acido cloridrico in teoria, però se gliela vogliamo... Chiediamo un secondo al notaio che dice... E il notaio ce l'ha da vaglia. Congratulazioni. Ho vinto un panda. Hai vinto un panda. Oddio, sì. Che bello. È tutta ritirarlo... di un panda. Sì, puoi ritirarlo in redazione quando vuoi. Dove? In redazione. No, ma penso che ti arriverà a casa. Ah sì, glielo spediamo a casa? Va sì, bene, ma... ok. Va bene, grazie. Sono contentissima. Hai residenza in Cina, vero? Sì, vicino sì. A un panda. Cioè sì. Proprio nello zoo. Ok, esattamente. Grazie. Ciao, ciao, grazie ciao. Mille. Ciao. Finalmente un ascoltatore ha vinto questo panda, poverino, che sta lì da solo in cerca di amore. Ci ascoltiamo un altro pezzo prima di salutarci. Sono i Radici nel Cemento con Ansai come ci piace. Anzai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Anzai come ci piace. Anzai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Anzai come ci piace. Anzai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Rapida scivola all'estra, lingua non si ferma mai. Lo stile romanesco è questo che non ce lo sai. Mo lo dico un'altra volta, a noi ci piace assai. Ci siamo andati a rota con sta roba di gestai. Allora se ti piace come lo famo? Davvero se ti piace sto rag è romanesco. Faccelo capì, alza la sta mano. E na mamma vi prendi fiato, soffiamo il pistero. Sai come ci piace? Oh! Me ci piace, come ci piace il nostro ritmo. Se ci piace, sai come ci piace? Oh! Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Sai come ci piace? Se ci piace. Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Sai come ci piace? Se ci piace. Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Che vuole muovere nella danza gente unita, presa dal momento fino a quando non è finita. Piano d'amore e di rispetto come nella vita. Questa è la nostra storia e non ci rinunciamo mica. Quello che ci interessa è che la festa vada avanti. Le disco e le peli massicci per voi tutti quanti. Chi mi regge un palmino faccia l'easy banking. Non c'è unità di che state a tocchi e siete stanchi. Mi sa che il chimico in questo momento è in diretta. Ci sei? Ci sei? Sì, ma non sono in diretta perché sento ancora la musica. Allora spegni la musica. Ci sei? Brutto. Che te ridi, bro? Hai sniffato un po' troppo di acido cloridrico idrofubico al no, pH1. Al pH... Idioti. Grazie! È HECL, acido... cioè... H idrogeno, Cl cloro. Non è HCl. Scusa, ma sono un chimico io? No, ma hai fatto lo scientifico, mio. Sono un ingegnere, mi dispiace, non le so queste cose. Siamo messi bene allora. Vabbè, ormai il panda è partito e perciò, cioè, ci dovevi avvertire prima. E niente, mi dispiace, il tuo panda l'hai perso. Ma l'ho dato io l'indizio. Ho capito, però il panda è perso comunque. Va bene. Dai, comunque era tanto contenta quella lì di aver vinto il panda, perciò lasciamoglielo, no? Ah, sì, sì, no, glielo lascio, per carità. Mi sembra anche giusto. Sì, sì, no, per carità, poi io comunque non ambivo a questo trofeo. No, vi ringrazio io per avermi fatto partecipare a questa trasmissione e arrivederci alla prossima, anzi. Va bene, ci ricolleghiamo domenica prossima per la prossima lezione di chimica, allora. Magari. Va bene, ok, d'ora in poi tu sarai il nostro imbucato speciale, il nostro insegnante di chimica personale. Vabbè, ti ringraziamo ancora e ti ringrazio soprattutto di averci dato degli idioti. È stato molto entusiasmante. E stimolante, sì. Ve lo do spesso, insomma. Cioè, non è... Lo so, ma in diretta è diverso, perché proprio ci scalda il cuore e ci fa sentire che questa trasmissione vive dentro e pulsa. Vabbè, capito? Proprio pum pum, pum pum, capito? Sentiamo dalle cuffie che fa pum pum, caffè però doppio, ha un dire, senso. Vi posso dire che io ogni domenica vi ascolto. E questo naturalmente ci fa piacere. Con molto piacere. Grazie, veramente. Vabbè, dai, allora domenica prossima domenica ci finiamo prossima. Di ascoltare questo pezzo di Radici nel Cemento e poi ci salutiamo, nonostante Jazzy Jazz immagino che a questo punto non verrà più in trasmissione. Noi chiudiamo tra pochissimo perché purtroppo ci tocca andare a casa a studiare. Sì, è partito da cavo, però non sai come mi piace. E infatti ci piace a tutti, allora manteniamolo vivo! Ma chi ce va di nuovo a casa studiamo? Me lo spieghi, Matteo? Infatti c'era la risatina sarcastica che faceva capire che in realtà avevo detto una cazzata. Sai come ci piace, oh. Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Sai come ci piace, oh. Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Sai come ci piace, oh. Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Sai come ci piace, oh. Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Rapida scivola a letto, la lingua non si ferma mai. Lo stile romanesco è questo che non ce lo sai. Mo lo dico un'altra volta, a noi ci piace assai. Ci siamo andati a rota con sta roba di gestai. Allora se ti piace, tu me lo famo. Davvero se ti piace, sto racca è romanesco. Faccelo capire, alza la sta mano. E la mamma mi deve prendi piatto sul piano pischietto. Alza come ci piace, alza come ci piace. Se se ci piace, americani spuri, vi piace questo ritmo? Ci piace il nostro ritmo, mica no. Se se ci piace, ma ci piace il nostro ritmo, mica no. Sai come ci piace, se se ci piace. Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Quello che volevo vedere nella danza gente unita, presa dal momento fino a quando non è finita. Piena d'amore e rispetto come nella vita. Questa è la nostra storia e non ci rinunciamo mica. Quello che ci interessa è che la... Tipo X, io vado a riparare il booty, no, da Faez. Voi tutti quanti, chi mi regge pompa almeno faccia l'easy spanking. Non sono i dati che state a tocchi e siete stanchi. Inizio ad avere paura, ma tanto ho paura di te. Non voglio stare in studio con te. Let's not bingo! Della metropoli, il suono che avvicina tutti i popoli. E questo è il suono della periferia, che ha fatto il giro del mondo dritto fino a casa mia. Allora, sì, questa è l'ora del fomento. Sento, non ti distrarre per un momento. Sento, sentilo bene sto portento. Sento, se chiama radici nel cemento. Sai come ci piace, se, se ci piace a noi. Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Sai come ci piace, ah, ah, ah. Sentilo bene, senti la palla, sentilo wallo. The fire reggae di me noi tenemo sempre mor. Sentilo, sentilo, sentilo che non puoi tenerlo a bada. A Roma sono maestri biscuiti della villada. Sentilo, sentilo, sentilo, sentilo, sentilo come spacca. Il ritmo di malafede, questo è il suono di baracca. Linea di massa, io una camminia con sul russo. Monte vago brusco con la pigna e la gas. Sai come ci piace, se se ci piace. Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. A me no. Sai come ci piace, a me no. Sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. Sentilo, sentilo, sentilo, sentilo, sentilo come spigne. Cinta come una trottola in giro, iarintigne. Sentilo, sentilo, sentilo, sentilo, sentilo, sentilo come spotta. Il rullo va a manetta, la gran cassa va la botta. Sentilo, sentilo, sentilo, sentilo, sentilo come tona. Sto basso è una potenza e vibra tutto quando suona. Sentilo, sentilo, sentilo, sentilo, sentilo come taglia. Mandamela da capo fino a quando non si squaglia. Sai come ci piace, sai come ci piace. ci piace il nostro ritmo, mica no. Ma sai come ci piace, oh, oh, oh. Ma sai come ci piace il nostro ritmo, mica no. E non mi stanco mai se va a girare, gira sta base. Perché sta base più gira, rigira, più mi piace. E non mi stanco mai per questa musica è la vita. E non mi stanca mai fin tanto che non è finita. Con questo bellissimo giro finale di Sai come ci piace, radici nel cemento, mi sa che dovremmo quasi concludere la nostra puntata, anche se mi dispiace, vero Tameto? Dai, su, adesso non piangere, però i nostri amici ascoltatori e le nostre amiche ascoltatrici si saranno svegliati a questo punto con un gran mal di testa. E con un panda. E con un panda, anche, è vero, sì. E vabbè, dai, adesso le lasciamo un po' in silenzio e ad ascoltare un po' di musica tranquilla, sempre dalle casse di Onda Rossa 87.9. Direi che per Caffè Doppio è arrivata l'ora di chiudere. Sono arrivate già le 6:15. Abbiamo sforato, vi abbiamo fatto compagnia, diciamo così, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Vi abbiamo fatto compagnia per un quarto d'ora in più, ma a questo punto direi che ci dobbiamo salutare. Ricordiamo come sottoscriversi, conto corrente postale 61804001, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185 Roma. Chiamateci al telefono 0649 1750, e per anche sottoscrivere dal sito fate www.ondarossa.info. E allora per Caffè Doppio è tutto, a domenica prossima con un'altra puntata dedicata a un ambito della musica che ci ha cresciuto, sempre dalle 5 alle 6 del pomeriggio sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, in streaming sempre dal sito ondarossa.info. E vi ricordiamo che la prossima volta prenderemo 4 caffè doppi e saremo attivissimi, quindi non perdetevi la prossima puntata! E scopriremo anche chimicamente cosa c'è dentro il caffè, io direi. Sì, naturalmente con l'imbucato speciale, a cui daremo il nome la prossima settimana. Scopritelo con noi. Caffè Doppio è tutto! Ciao! Ciao! Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 70 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè, il caffè. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali?